terzo anello, ad alta voce, Il deserto dei Tartari, di Dino Buzzati. Sbarbato e vestito di tutto punto, ma si sentiva ballare dentro la troppa larga divisa, il maggiore Giovanni Drogo uscì dalla camera, si avviò per il corridoio che gli parve molto più lungo del solito. Luca stava al suo fianco, leggermente più indietro, pronto a sorreggerlo, perché vedeva come l'ufficiale stesse in piedi a fatica. Ora le ondate di vertigine ritornavano a sbalzi. Ogni volta Drogo doveva fermarsi, appoggiandosi al muro. «Mi agito troppo. Il solito nervosismo», pensò. «Nel complesso, però, mi sento meglio». Effettivamente i capogiri passarono e Drogo giunse sulla terrazza sommitale del forte, dove diversi ufficiali stavano scrutando con i cannocchiali il triangolo visibile di pianura lasciato libero dalle montagne. Giovanni restò abbacinato dal pieno splendore del sole, a cui non era più abituato. Rispose confusamente ai saluti degli ufficiali presenti. Gli parve, ma forse era soltanto un'interpretazione maligna, che i subalterni lo salutassero con una certa disinvoltura, quasi egli non fosse più il loro diretto superiore, l'arbitro in un certo senso della loro vita quotidiana. Lo giudicavano già liquidato. Questo sgradevole pensiero fu breve, ritornando alla maggiore preoccupazione, l'idea della guerra. Drogo scorse, per prima cosa, dal ciglio della ridotta nuova, alzarsi un sottile fumo. Dunque c'era già stata rimessa la guardia. Erano state già prese misure d'eccezione. Il comando era già in moto, senza che nessuno avesse interpellato lui, comandante in seconda. Non l'avevano neppure avvertito, anzi. Se Prosdocimo di sua iniziativa non fosse andato a chiamarlo, Drogo sarebbe stato ancora in letto, ignaro della minaccia. Lo colse, un'ira cocente ed amara. Gli occhi gli si appannarono. Dovette appoggiarsi al parapetto della terrazza. E lo fece, controllandosi al massimo, perché gli altri non capissero in che stato egli era ridotto. Si sentiva orribilmente solo, fra gente nemica. C'era sì qualche giovane tenente, come Moro, che gli era affezionato, ma che cosa contava per lui l'appoggio dei subalterni? In quel mentre sentì dare l'attenti. A passi precipitati si fece avanti il tenente colonnello Simeoni, rosso in volto. «È mezz'ora che ti cerco dappertutto!» esclamò a Drogo. «Non sapevo più come fare! Bisogna prendere delle decisioni!» «È mezz'ora che ti cerco dappertutto!» esclamò a Drogo. «Non sapevo più come fare. Bisogna prendere delle decisioni!» Si accostò con esuberante cordialità, aggrottando le ciglia come fosse preoccupatissimo e ansioso di avere i consigli di Drogo. «Ho qui un messaggio del generale Stazzi», disse Simeoni, prevenendo ogni domanda di Drogo e conducendolo in disparte perché gli altri non potessero udire. «Stanno arrivando due reggimenti, capisci? E io? Dove li metto?» «Due reggimenti di rinforzo», fece Drogo sbalordito. Simeoni gli diede il messaggio. Il generale annunciava che per misura di sicurezza, temendosi possibili provocazioni nemiche, due reggimenti, il 17° Fanteria, più un secondo di formazione con un gruppo di artiglieria leggera, erano stati mandati a rinforzare il presidio della fortezza. Si ristabilisse, appena possibile, il servizio di guardia secondo l'antico organico, vale a dire con forza completa, si preparassero gli accantonamenti per ufficiali e soldati. Una parte, naturalmente, si sarebbe attendata. «Intanto ho mandato un plotone alla ridotta nuova. Ho fatto bene, no?» aggiunse Simeoni, senza dar tempo a Drogo di rispondere. «Li hai già visti?» «Sì, sì, hai fatto bene», rispose Giovanni faticosamente. Le parole di Simeoni gli entravano nelle orecchie con un suono staccato e irreale. Le cose attorno oscillavano sgradevolmente. Drogo si sentiva male. Uno sfinimento atroce lo aveva invaso di colpo. Tutta la sua volontà era concentrata nel solo sforzo di sostenersi in piedi. «Oddio, oddio!» supplicò mentalmente. «Aiutami un poco!» Per mascherare il collasso si fece dare un cannocchiale Era il famoso cannocchiale del tenente Simeoni e si mise a guardare verso il nord, appoggiando i gomiti al parapetto. Ciò lo aiutava a tenersi in piedi. Oh, se almeno i nemici avessero aspettato un poco, sarebbe bastata una settimana perché lui si potesse rimettere. Avevano aspettato tanti anni, non potevano tardare ancora qualche giorno soltanto. Guardò nel cannocchiale il visibile triangolo di deserto. Sperò di non scorgere nulla, che la strada fosse deserta, che non ci fosse alcun segno di vita. Questo si augurava Drogo dopo aver consumato la vita nell'attesa del nemico. Sperava di non scorgere nulla e invece una striscia nera attraversava obliquamente il fondo biancastro della pianura e questa striscia si muoveva, un denso brulichio di uomini e convogli che scendeva verso la fortezza. Altro che le miserabili file di armati al tempo della delimitazione del confine, era l'armata del nord, finalmente, e chissà. A questo punto Drogo vide l'immagine entro al cannocchiale mettersi a girare con moto di vortice, quasi sempre più scura, e poi piombare nel buio. Svenuto, si afflosciò sul parapetto come un fantoccio. Simeoni lo sostenne in tempo. Sorreggendo il corpo svuotato di vita, sentì, attraverso la stoffa, lo scarno telaio delle ossa. Passarono un giorno e una notte. Il maggiore Giovanni Drogo giaceva nel letto. Ogni tanto giungeva il ritmico tonfo della cisterna e nessun altro rumore, benché in tutta la fortezza crescesse ad ogni minuto un ansioso fermento. Isolato da tutto, Drogo se ne stava teso ad ascoltare il proprio corpo, semmai le perdute forze cominciassero a tornare. Il dottor Rovina gli aveva detto che sarebbe stata questione di pochi giorni. Ma di quanti, in realtà? Avrebbe potuto, al sopraggiungere dei nemici, alzarsi almeno in piedi, vestirsi, trascinarsi fino sul tetto del forte? Di quando in quando si levava dal letto, ogni volta che gli pareva di sentirsi un po' meglio, camminava senza appoggiarsi fin dinanzi allo specchio, ma qui l'immagine sinistra della sua faccia, sempre più terrea e scavata, spegneva le nuove speranze. Annebbiato dal capogiro, ritornava barcollando al letto, malediceva il medico che non lo riusciva a guarire. Già la striscia di sole sul pavimento aveva fatto un ampio giro. Dovevano essere almeno le 11. Voci inconsuete si alzavano dal cortile e Drogo giaceva immobile con gli sguardi a soffitto quando entrò nella camera il tenente colonnello Simeoni, comandante della fortezza. «Come va?» chiese vivamente. «Un po' meglio?» Ma sei ben pallido, sai. Drogo disse, e si stupì di sentir tremare la propria voce, domani spero di alzarmi. Ti potrò aiutare un poco. Ah, no, no, non pensarci. Pensa a guarire adesso e non credere che ti abbia dimenticato. Ho anzi una buona notizia. Oggi verrà una magnifica carrozza a prenderti. Guerra o non guerra, gli amici prima di tutto. Oso dire. Una carrozza a prendermi? Perché a prendermi? Ma sì, per venirti a prendere. Non vorrai stare sempre qui in questa stanzaccia. In città ti curerai meglio. Entro un mese sarai rimesso in gamba. E non darti pensiero di qui. Oramai il più è superato. Un'ira tremenda si ingorgò nel petto di Drogo. Lui che aveva buttato via le cose migliori della vita per aspettare i nemici, che da più di 30 anni si era nutrito di quell'unica fede. Lo cacciavano via proprio adesso, che finalmente la guerra era arrivata. «Dovevi chiedermelo almeno», rispose con voce tremante dall'ira. «Io non mi muovo, io voglio stare qui. Sono meno malato di quanto tu creda. Io domani mi alzo». «Non agitarti, per carità, non ne faremo niente. Se ti agiti starai ancora peggio», fece Simeoni con uno stentato sorriso di comprensione. «Solo che mi pareva molto meglio. Anche Rovina lo dice». «Che cosa Rovina?» «È Rovina che ti ha detto di far venire qui la carrozza». «No, no, della carrozza non si è parlato con Rovina, ma lui dice che faresti bene a cambiare aria». Drogo allora pensò di parlare a Simeoni come a un amico vero, di aprire il suo animo, come avrebbe fatto con Ortiz. Anche Simeoni, dopo tutto, era un uomo. «Senti, Simeoni», provò cambiando tono, «tu lo sai che qui alla fortezza si è rimasti tutti per la speranza. È difficile dire, ma anche tu lo sai bene». Non riusciva proprio a spiegarsi. Come far intendere certe cose a un uomo simile? Se non fosse stato per questa possibilità... «Non capisco», disse Simeoni, con evidente fastidio. «Diventava anche patetico, Drogo», pensò Simeoni. «La malattia l'aveva così rammollito». «Ma sì, che devi capire», insistette Giovanni. «È più di 30 anni che sono qui ad aspettare. Ho lasciato andare molte occasioni. 30 anni sono qualcosa, tutto per aspettare questi nemici. Non puoi pretendere adesso, non puoi pretendere adesso che me ne vada, non puoi pretenderlo. Ho un certo diritto di rimanere, mi pare». «Bene», ribatté Simeoni, irritato. «Credevo di farti un favore, e tu mi rispondi in questo modo. Ah, non valeva proprio la pena. Ho mandato 2 portaordini apposta. Ho fatto ritardare apposta la marcia di una batteria per lasciar passare la carrozza». «Ma non dico mica niente a te», fece Drogo. «Ti sono anzi riconoscente. Tu l'hai fatto a fin di bene, io lo capisco». Oh, che pena, pensava, doversi tener buona quella carogna. «Del resto, la carrozza può fermarsi qua. Adesso non sono neanche in condizione di fare un viaggio simile», aggiunse incautamente. «Poco fa dicevi che domani ti alzi, adesso dici di non poter neanche montare in carrozza. Scusami, ma non sai neanche tu cosa vuoi». Drogo cercò di aggiustare. «Oh, no, no, è ben diverso. Una cosa è fare un viaggio simile, un'altra andare fin sul cammino di ronda. Posso anche portarmi una panchetta a sedermi se mi sento debole». Aveva pensato di dire sedia, ma la cosa poteva sembrare ridicola. «Di là, io posso controllare il servizio, posso almeno vedere». «Resta, resta allora», fece come per concludere Simeoni. «Ma non so dove metterò a dormire gli ufficiali che arriveranno. Non posso mica metterli nei corridoi, non posso mica metterli in cantina. In questa stanza, 3 letti ci potevano stare». Drogo guardò Simeoni agghiacciato. A tanto arrivava dunque. Voleva spedir via lui, Drogo, per avere una stanza libera, unicamente per questo. Altro che premura e amicizie. Doveva capirlo fin da principio, pensò Drogo. Doveva bene aspettarselo da una canaglia simile. Siccome Drogo taceva, Simeoni, incoraggiato, insistette. Tre letti qui ci possono stare benissimo. Due lungo quella parete e il terzo in quell'angolo, vedi? Drogo, se tu mi ascolti, specificò senza il più minimo riguardo umano. Se tu mi ascolti, in fondo, mi faciliti il compito. Mentre a star qui, scusa, sai se te lo dico, io non vedo che cosa tu possa fare di utile nelle condizioni in cui sei. Bene, lo interruppe Giovanni. Ho capito. Adesso basta, ti prego. Ho anche mal di testa. Scusami, disse l'altro, scusami se insisto, ma vorrei sistemarla subito questa faccenda. Oramai la carrozza è in viaggio. Rovina è favorevole alla partenza e qui resterebbe libera una stanza. Tu guarisci più presto e in fondo anche io, a tenerti qui malato, mi prendo una bella responsabilità. Se poi succedesse qualche disgrazia, mi obblighi ad assumere una bella responsabilità. No, te lo dico sinceramente. Senti, rispose Drogo, ma capiva come fosse assurdo lottare e intanto fissava la striscia di sole che stava salendo lungo la parete di legno, allungandosi di sghembo. Scusami se ti dico di no, ma preferisco restare. Tu non avrai nessuna grana, te lo garantisco. Se vuoi ti faccio una dichiarazione scritta. Va, Simeoni, lasciami tranquillo. Forse ho poco tempo da vivere. Lascia che io stia qui. Sono più di 30 anni che dormo in questa stanza. L'altro tacque un momento. Fissò con disprezzo il collega ammalato. Ebbe un cattivo sorriso. Poi chiese con voce alterata. E se io te lo chiedessi come superiore? Se il mio fosse un ordine, tu cosa potresti dire? E qui fece una pausa, assaporando l'impressione prodotta. Questa volta, caro Drogo, non dimostri il tuo solito spirito militare. E mi dispiace di dovertelo dire, ma in fin dei conti te ne vai al sicuro. Chissà quanti farebbero il cambio con te. Ammetto anche che ti dispiace. Ma non si può mica avere tutto in questa vita. Bisogna pur farsi una ragione. Adesso ti mando il tuo attendente, che ti prepari le cose. Per le due la carrozza dovrebbe essere qui. Ci vediamo più tardi, allora. Così disse. E se ne andò in fretta. Deliberatamente, per non lasciare a Drogo il tempo per nuove obiezioni. Chiuse la porta con grande precipitazione, si allontanò per il corridoio a passi svelti, da persona soddisfatta di sé, che domina perfettamente la situazione. Rimase un grave silenzio. Ploc! Fece dietro al muro l'acqua della cisterna. Poi non si udì nella camera che l'ansimare di Drogo, alquanto simile a un singhiozzo. E fuori la giornata era al suo più grande splendore, perfino le pietre cominciavano a intiepidirsi. Lontano ed eguale si sentiva il suono dell'acqua sulle precipitose pareti. I nemici si ammassavano sotto l'ultimo gradone al cospetto della fortezza. Per la strada della pianura scendevano ancora truppe e carriaggi. Sugli spalti del forte tutto è pronto, le munizioni in regola, i soldati ben disposti, le armi verificate. Tutti gli sguardi sono al nord, anche se non si vede niente per via delle montagne davanti. Solo dalla ridotta nuova si può osservare bene tutto quanto. Così come in quei giorni lontani, quando erano giunti gli stranieri per delimitare i confini, come allora c'è una sospensione di animi fra alterni soffi di paura e di gioia. Comunque, nessuno ha il tempo di ricordarsi di Drogo, il quale sta vestendosi, aiutato da Luca, e si prepara a partire. Come carrozza era effettivamente una dignitosa carrozza, perfino esagerata, su quelle rustiche strade. Poteva sembrare di un ricco signore se non ci fosse stato sugli sportelli lo stemma di un reggimento. In serpa erano due soldati, il cocchiere e l'attendente di Drogo. Nessuno, in mezzo al trambusto della fortezza, dove già arrivavano i primi scaglioni di rinforzi, fece molta attenzione a un ufficiale magro, dal volto smunto e giallastro, scendeva lentamente le scale, si avviava all'andito di ingresso e usciva fuori, dove era ferma la carrozza. Sulla spianata, inondata di sole, si vedeva in quel momento avanzare una lunga schiera di soldati, di cavalli e di muli proveniente dalla valle. Benché stanchi per la marcia forzata, i militari acceleravano il passo quanto più si facevano vicini alla fortezza e i musicanti, in testa, furono visti togliere le fodere di tela grigia agli strumenti, come se si accingessero a suonare. Qualcuno intanto salutava Drogo, ma pochi e non più come prima. Tutti sapevano, pareva, che egli se ne stava andando e che oramai non contava più niente nella gerarchia della fortezza. Il tenente Moro e qualche altro vennero a dargli il buon viaggio. Fu però un saluto brevissimo, con quella affettuosità generica che è propria dei giovani verso le vecchie generazioni. Uno disse a Drogo che il signor comandante Simeoni lo pregava di aspettare. In quel momento era impegnatissimo. Che il signor maggiore Drogo avesse la bontà di pazientare qualche minuto, il signor comandante sarebbe venuto senza fallo. Salito che fu in carrozza, Drogo invece diede subito ordine di partire. Aveva fatto abbassare il soffietto per respirare di più. Si era avvolto attorno alle gambe due o tre coperte scure sulle quali spiccava lo scintillio della sciabola. Traballando sui sassi, la carrozza si avviò per la sassosa spianata, volgendo così all'ultimo termine la via di Drogo. Voltato da un lato sul sedile, la testa dondolando a ogni urto delle ruote, Drogo fissava i muri gialli della fortezza, che si facevano sempre più bassi. Lassù era passata la sua esistenza segregata dal mondo. Per aspettare il nemico egli si era tormentato più di 30 anni, e adesso che gli stranieri arrivavano, adesso lo cacciavano via. Ma i suoi compagni, gli altri che giù nella città avevano menato una vita facile e lieta, eccoli adesso arrivare al valico con superiori sorrisi di sprezzo a far bottino di gloria. Gli occhi di Drogo fissavano come non mai le giallastre pareti della fortezza, le sagome geometriche di casematte e polveriere. Lacrime lente e amarissime calavano giù per la pelle raggrinzita. Tutto finiva miseramente, e non restava nulla da dire. Nulla, proprio nulla, restava disponibile a favore di Drogo. Egli era solo al mondo, malato, e l'avevano cacciato via come un lebbroso. «Maledetti, maledetti», diceva. Ma poi preferiva lasciarsi andare, non pensare più a niente, altrimenti un insopportabile rigurgito d'ira gli si gonfiava nel petto. Il sole era già sulla via discendente. Pur rimanendogli parecchia strada da fare, i due soldati in serpa chiacchieravano tranquillamente, indifferenti al rimanere o al partire. Essi avevano preso la vita come veniva, senza angustiarsi con pensieri assurdi. La carrozza, di ottima costruzione, una vera carrozza da malato, oscillava ad ogni buca del terreno come delicata bilancia, e la fortezza, nell'insieme del panorama, si faceva sempre più piccola e piatta, sebbene le sue mura risplendessero stranamente in quel pomeriggio di primavera. «L'ultima volta, molto probabilmente», pensò Drogo quando la carrozza giunse al ciglio della spianata, là dove la strada cominciava a immergersi nella valle. «Addio, fortezza», si disse. Ma Drogo era un po' instupidito e non ebbe neppure il coraggio di far fermare i cavalli per dare ancora uno sguardo alla vecchia bicocca che, solo adesso, dopo secoli, stava per cominciare la giusta vita. Per un istante ancora rimase negli occhi di Drogo l'immagine delle mura giallicce, dei bastioni a sghembo, delle misteriose ridotte, delle rupi laterali nere per il disgelo. Parve a Giovanni, ma fu un infinitesimo di tempo, che le mura si allungassero improvvisamente verso il cielo, balenando di luce. Poi ogni vista fu tolta brutalmente dalle rocce erbose entro cui sprofondava la strada. Thank you.